Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Up. Questa è la voce di Nicky D'Andrea che vi introduce a questa serata in cui Up parlerà di una formazione che è uscita da poco con un nuovo album. Loro sono veneti, si chiamano Universal Sex Arena e hanno pubblicato da poco il loro terzo album che si chiama Abdita. Abbiamo parlato con quello che è il loro leader, nonché voce, ovvero Nicola Stefanato, e abbiamo parlato per una buona mezz'oretta, quindi è stata un'intervista davvero molto interessante. E così ci ha aperto gli orizzonti di quella che è appunto la storia e la filosofia in qualche maniera di questa band, appunto gli Universal Sex Arena. E devo dire, inizialmente c'è magari l'audio dei primi minuti per quanto riguarda la sua voce non è il massimo, ma poi si è un po' regolarizzato, quindi abbiate un po' di pazienza. Questa sera ascolteremo buona parte della loro musica, quindi diversi estratti dall'ultimo lavoro, ma anche dai due precedenti. E voglio leggere solo in apertura di questa puntata, prima di passare la parola all'intervista telefonica registrata con Nicola, una nota che riguarda appunto l'idea che sta dietro a questo Abdita, che parla di un viaggio verso sud. Non c'è un punto geografico preciso, c'è un'idea di sud, viaggio che porta a incontrare popoli, paesaggi e musica che accolgono, mettono in pericolo, iniziano a nuovi stili di vita. Il sud scioglie le interazioni tra gli uomini, scioglie il tempo e al tramonto scioglie tutto. Il sole fa che il tempo rallenti, che il lavoro sia focalizzato su una dimensione più appropriata all'essere umano e che la natura abbia il vestito migliore sempre. La contemplazione della vita diventa l'otium perfetto. L'amore, la natura, il tempo, la danza, la musica e il ritmo della vita. volevo chiederti del concetto di Abdita. Parla di un viaggio verso sud. In un periodo come questo, che invece i viaggi stanno avvenendo verso nord, più che altro per queste migrazioni continue, voi parlate di un viaggio verso sud. Mi spieghi un po' il concetto attorno a Abdita? Guarda, il concetto è molto semplice, non si parla di un sud geografico localizzato, ma di una sensazione di sud, si parla della semplicissima realtà di cui chiunque può avere esperienza spingendosi proprio in giù con la latitudine, nel senso la natura diventa migliore, la temperatura si alza, i rapporti sociali cambiano, le persone hanno un diverso rapporto anche con il lavoro, perché semplicemente a volte fa troppo caldo, ci sono cose più interessanti con cui passare la propria vita. La musica è diversa, il cibo è drasticamente diverso, il modo di intendere la convivialità. E quindi a vita un po'. Senza andare in profondità di quelle che potrebbero essere delle culture locali, delle musiche o degli usi e costumi locali localizzabili nel sud, fantastica su come potrebbe essere un sud eterno, meticcio, e in qualche modo un sud dappertutto, un sud cartesiano. Ok, sì, come se fosse, diciamo, come se tutto il mondo, diciamo, diventasse un sud universale, in In sostanza. qualche modo sì, nel senso è quasi come se nei personaggi che si incontrano nelle canzoni, sono dei piccoli episodi di questo viaggio, anche se non sono consecutivi, non hanno un fil rouge unico, sono quasi come se fossero una piccola antologia di racconti. Ognuno parla di accenna dei personaggi e a delle situazioni. E ciascun personaggio, spesso la parola sud è ricorrente, quasi come se fosse una meta finale, una terra promessa in qualche modo, dove si trova la musica, dove si trova il tempo, dove si trova lo spazio per divertirsi, lo spazio per essere positivi. Taste my mouth in the morning, the ground is dry. You're not here in a room. The more you lose, you say, "Elf." The more. sono sempre molto affascinato dai nomi che vengono dati sia alle canzoni che agli album. Infatti una delle mie domande ricorrenti è perché, ok, Abdita, che significato ha proprio lì? Come... Letteralmente significa segreta, nascosta, misteriosa. E quindi questa cosa ci piaceva che fosse femminile, e ci piaceva che in qualche modo conservasse, ci piaceva che fosse latina la parola, perché riportava quello che era, insomma, la nostra comunque originaria mediterraneità, lì uscirà in tutto il mondo da marzo per Kowloon Records, e quindi ci piaceva che nel titolo ci fossero tracce delle nostre origini, anche perché appunto il sud idealmente è tratteggiato in questo disco. Questo è il significato di Abdita. Tutte le canzoni hanno quest'idea di mistero quasi, quasi inviolabile. A volte c'è questa, a livello proprio narrativo, testuale, c'è questa idea di estraneo, di straniero che va a scoprire, affascinato, totalmente attirato da una cultura nuova, però questa cultura tenta in qualche modo di proteggersi, di integrarsi, ma di sopravvivere comunque nonostante l'interesse degli avventori, insomma. In questo modo Abdita, insomma, è questa forza che poi insomma, in sostanza, sì, è questo. Sì, quindi è la ricerca, la conoscenza di qualcosa che magari noi non conosciamo bene, che però faremmo bene ad andare a scoprire, perché appunto potrebbe arricchirci come persone. Assolutamente sì, esatto. Esatto, è un po' l'apertura, no? Il discorso che poi tutto viene arricchito dall'incontro, dall'integrazione, dalla mescolanza, assolutamente. Sì, sì, sì. Purtroppo sì, come accennavo prima, in questi tempi invece la questione è quasi opposta, perché c'è tanta paura dell'altro, tanta paura di quello che non conosciamo, fino a barricarci e addirittura diventare aggressivi nei confronti di quelli che invece magari vorrebbero semplicemente vivere o convivere con noi pacificamente, purtroppo. No. Sì, andate un po' contro, per fortuna andate controcorrente con questo discorso, devo dire. Guarda, chiaramente non c'erano, il disco risale ormai a, la stesura del disco risale ormai a quasi 2 anni fa, quindi non ci sono intenzioni politiche. Di sicuro, insomma, una delle cose in cui crediamo è sicuramente, insomma, il fatto che se tu attingessimo a più stimoli, tutti ci faremo del bene, insomma, restituendoli migliorati dal nostro punto di vista. La chiusura è, insomma, è sempre un po' un modo per regredire.